This program is proudly brought to you by Spectrum Records. Take a dream world one day holiday. Che mi guardava e diceva: "Non mi piace il bagno di mia madre!" Aveva paura di affogare e voleva negare in un mare banane. Dammi la banane! Bananito! Io lavoro per mangiare le banane, sono un negro! Di avere con un gruppo di ragazzi molto giovani qua di Bologna, si chiamano Just Men, che vuol dire solo uomini, e ce l'abbiamo in studio, vi hanno fatto sentire qualcosa, ma sicuramente vi faranno sentire molto altro questa sera. E io sono Antonio Lupolo, ci sono tante cose di cui dobbiamo parlare, perché questi giorni, come sapete, sono successe tante cose brutte nel mondo, specialmente a Bologna, ma intanto vorrei presentarvi il cantante di questo gruppo, cantante e compositore. Aspettate un attimo, sentite qua scartabollare che sta aprendo patatine, il Grand Canyon, Canyon croccante, e volevo presentarvelo, si chiama Roberto, cantante di Just Men, e saluta il pubblico da casa. Ciao ragazzi, sono Roberto Lorenzi, grazie ad Antonio che mi ha invitato alla trasmissione, grazie anche a Gio Patrizio che ci ascolta da Parigi. non è un buon momento per Parigi. Dopo ne parleremo, Antonio. Roberto, mi dicevi che tu hai suonato spesso nel piano bar di Parigi. E come ti sei trovato? Ho avuto la fortuna di suonare al Bataclan. Purtroppo non è un momento dato per parlare, ma è un posto bello, un teatro dove ho suonato insieme a una formazione di marmotte. Marmotte la conosciamo bene, no? Sì, è un posto. Ultimamente dicono che sia un po' angusto. Un po' angusto, un po' un gusto. È un po' il gusto, è il gusto dell'angusto. No, però ti dico, Antonio, io sono andato 2 anni fa, ci hanno suonato anche Testa e Porco, che sono un gruppo di Bologna, non frega un cazzo a me, però ci sono un po' delle rock band emergenti, non so perché non hanno attaccati. Tutto quello che mi stai dicendo adesso è molto interessante, sono spunti per ulteriori conversazioni che avremo più tardi, ma noi spesso abbiamo messo su Baby Radio dei pezzi di jazzman tipo Cocco Cellulare. Era molto bello Cocco Cellulare, eh? Quelle sono delle visioni di infanzia. Ah, ma da cosa ti vengono questi punti? Da divisioni che hai avuto, da divisioni da tua madre. Mia mamma mi è sempre stata vicina. Sono stata attaccata fin quando avevo 12 anni. Mi ha messo le rotelline nel triciclo. A 14 anni è stata a camminare al resto. Quindi mia mamma, devi considerare che mia mamma mi faceva la pasta al sugo. E la fa ancora, eh? Buona. Ma sempre tornando tua madre mi parlava della selezione di birra che si trova lì da te in zona Santa Viola. Sì, mia mamma ha la passione per le birre del discount. Anche noi ci piacciono perché spendi poco e hai molta mina con le birre del discount. Sì, ma poi lei voleva spendere poco. E ha speso poco? Lei ha speso quasi un cazzo e non faceva neanche il biglietto del tram. Ma questo è molto interessante. Dimmi di quella volta che sei andato alle Terme Fessine. Con mia mamma? Con Manuel, che ha pagato la parola. Sì. Cosa hai pensato, tua madre? Mia mamma ha detto: oh, mandaci, fai pagare la parola, è pieno di soldi, ti devi fregare, è più ricco di te, fai pagare isso. Vero, vi ricorderete voi Manuel Gamberini, di cui abbiamo messo dei pezzi di carta bianca, che erano molto lunghi. Sono bravi, molto bravi, però attaccano delle pezze, e non bisogna dimenticarlo. E ascoltando da voi di jazzman avete una vasta discografia, avete fatto molti dischi. E ho trovato questo leitmotiv, insomma, il cibo. Mi piace parlare spesso di cibo e adesso noi siamo reduci da questa esperienza disastrosa dell'Expo, che è stata una vera celebrazione del fascismo a Milano, già che è una città di fasci. E volevo sapere da te perché tutti questi pezzi sul cibo, che sappiamo che è importante, però fino a un certo punto. E mia mamma? È sempre tua madre. Mia madre mi infilava le patate, diceva che avevo bisogno di amido, l'uomo amido. Come Fantaman. Esatto, come Fantaman avevo bisogno di amido, quindi alle 3 di notte quando tornavo a casa dagli after in pasticceria, mi infilava le potatoes in bocca e da lì ho iniziato ad avere una avversione per il cibo. Sono stato in cura per anni perché sono diventato tipo bulimico. Dove? A Serpede? No, lì mi hanno aiutato per altri. Ha aiutato la Serpede, eh? Bello. Bello, bello. Ho visto che avete anche la pubblicità. Serpede. Sì, uno sponsor nostro. Mi ci siamo arrivati molto bene. Ci è andato anche un mio amico, che l'avevate letto come rappresentante di Kendall, poi non l'ho più visto, suonavo assieme. Ah, e quindi adesso sei rimasto da solo? Sì, adesso mi diletto con canzoni da piano bar, tipo Gigi è ridicolo. Ce la fai a sentire? Perché no? È pronto a far sentire qualcosa? Perché no, facciamo qua live? Sì, dai, qua un grande live di Baby Radio, i Just Men. Sì, nella persona di Roberto. Antonio, dillo che sono da solo, però. È da solo purtroppo, però lui fa per due, ascoltiamo. Gigi, tu dicono, ma mi piace lo stesso perché Gigi, io ti voglio, io ti credo, quando mi parli delle buse di te. Gigi, ridicolo a scuola, giocavi da solo con flipper mono, uso Monter, Montreale, la mia città in Canada preferita. Ci giocavo, ti voglio. Lo senti questo suono? Vaffanculo! Non vanno risolto, ma sono stato insieme a Batman e al Batman per suonare la musica, quella tradizionale. Parole per quello che ho ascoltato. Grazie. Musica che mi ha toccato nel profondo. Beh, sai, cos'è un pezzo nuovo? È un inedito. È un edito, è un edito. Scasso, è un edito. Come quando... furto, un edito con un scasso. Roberto va a fumare, noi ci prendiamo una piccola pausa con sempre un pezzo di Jazz Man, insomma. Ciao, ciao, ciao. Dopo. Agenzia Viaggi il Ketodol, in via Beroaldo 15. Se il tuo sogno è andare a Goa con tua moglie, noi te lo facciamo diventare realtà. Ketodol. Col testosterone ti proponiamo viaggi fantastici a partire da €15,99. Il prenotamento sarà in una fatiscente località indiana, dove però puoi ascoltare la musica che piace a te, la Goa, la Full On. Ci sarà anche Pietro che ti accompagnerà e ti delizierà con le sue stronzate. Italia. BB Radio è una radio che ti dà la forza di affrontare i problemi dell'amore. Gastronomia il piede coperto, l'unica gastronomia in grado di soddisfare i bisogni della chimica. Numero verde anche sul 144-16-1412, via della Grazia numero 12, Grazia dell'Edda. Jagger, tranquilo, todo saldrá bien, no estás solo, yo soy tu amigo. Grazie per starmi cerca. Cammino sotto questa pioggia, il cielo piange sopra la città. Volo, ma cammino sull'asfalto e combatto da solo contro il mio demone. Cammino sotto questa pioggia, il cielo piange sopra la città. Volo, ma cammino sull'asfalto e combatto da solo contro il mio demone. È da una vita che non vivo la mia vita, se la mia vita viene scritta a matita. Non sono un bullo ma un bullone che si avvita, perché non sono stabile in questo punto di visto raggiunto, il punto definito. Sotto questa pioggia adesso tremo, sono infreddolita anche se vivo in un inferno, ma comunque anche stavolta supero l'inverno. Dal vetro della macchina osservo gente che cammina con lo sguardo fisso, e tutto ciò che ho visto lo conservo. Cammino sull'asfalto mentre volo col pensiero, è una giornata come tante davvero. I rami sfogli mentre noi con le sciarpe, dentro io mi sento morto con il tempo, ed è per questo che gira il cimitero. Il tempo non migliora, piove da un'ora mentre nel frattempo arrivano le nove. Le nuvole dilatano un cielo che si crepa, dal vetro della macchina c'è un'anima che gela. Cammino sotto questa pioggia, il cielo piange sopra la città. Volo, ma cammino sull'asfalto e combatto da solo contro il mio demone. Cammino sotto questa pioggia, il cielo piange sopra la città. Volo, ma cammino sull'asfalto e combatto da solo contro il mio demone. Sé cómo te sientes, sé que estás muy mal, sé que es muy difícil, que ya no aguantas más. Te miro y me sorprendo, qué fea soledad, qué fea soledad, qué fea soledad. En mi soledad he visto las cosas muy claras, gente que deambula y que vive de emociones, sueños frantumados por culpa de funciones, valores derrochados en muchas ocasiones. Alza ti camina, me lo decían siempre, mírate al espejo, verás cómo se siente. Yo en mi soledad he sido inteligente, fuerte, valiente, existente, existente, existente, afrontando esta realidad diferente, en medio de la gente falsa y demente. Aprende a escuchar, es el mejor consejo, te lo dice un pana que ha vivido siempre en eso. No es cuestión de sesos, así que salte de eso. En algún lugar del mundo hay alguien que te espera, aprecia más tu vida y vive con cautela. No mires más atrás, porque atrás ya nada queda. Cammino sotto questa pioggia, il cielo piange sopra la città. Volo, ma cammino sull'asfalto e combatto da solo contro il mio demone. Cammino sotto questa pioggia, il cielo piange sopra la città. Volo, ma cammino sull'asfalto e combatto da solo contro il mio demone. Più sperimentale in questo pezzo, sentirlo, eh? Sì, è diverso, diverso da quello che fa. Finalmente è diverso, però mi piace anche quello. E Roberto, so che te sono andato in tanti gruppi, parlaci un po' della tua esperienza musicale. Allora, io ho iniziato a suonare quando avevo 28 anni, era un prodigio della musica, insomma. Oh, suonavo le cascate elettriche. Era della Digitoli. La Digitoli, ricordiamo, l'azienda di Piacenza. Sì, bravo. Ho suonato in questo gruppo gli Scalmanati. Scalmanati, me li ricordo, li ho visti alla Bazzano Ribelle, alla Torre di Bazzano, con Enrico Maso. Ah, sì. Lui era un fotografo, e con gli Scalmanati abbiamo suonato per vari anni, e ci travestivamo da... avevamo un abbigliamento sempre consono per l'occasione. Eh beh. Tipo, giustamente eravamo in un attore, quindi siamo vestiti da... Torrioni. No, da Valtellini, da quelli che gli abitanti di Volterra, dove ho fatto la saga di Twilight. Saga del vino di Twilight, il vino Twilight. Mi ricordo. E insomma, parliamo di video formigine abbiamo fatto. Volevo tornare un attimo al discorso di Masi, perché mi ricordo di Masi che ebbe un diverbio con il cantante dei Gerda, purtroppo. In diretta su Cuba, che suonava nei Gerda, nei Sumo, in diretta su Cuba, al Festival Muto, ricordiamo, sì. Il festival organizzato da Mattia Rullini, uno skater di Granarolo, adesso un artista del Louvre. La Svezia? Sì, un artista della Svezia, come Ibrahimovic. Sì. E... ma non va a caccia lui, mi sa che... No. Non è cacciato? No. No. Non mi risulta a me. Però volevo parlare un po', insomma, di Mattia, di Masi, questa Bologna resistente che oggi si fa sempre più nebbiosa con il tempo. Ma non ci sono più i proletari di una volta, sai. Una volta... si andava anche a Barcellona a visitare gli altri posti, diciamo. Il centro sociale, insomma. Sì, le scherda, la musizia. La musizia, sì. Quello della resistenza spagnola durante sì, gli anni 30. Sì, c'è anche l'Eta, ci andava Etabeta. Etabeta, che era un amico di Orwell, ce lo ricordiamo, durante la rivoluzione spagnola. Sì, ma non si legge sempre di meno, Antonio. Lo sa, ne parlavo con Patrizio ieri proprio, questa cosa. Ormai viene tutto soppiantato. Cioè, proprio pensare, non leggi più. Cioè, adesso siamo tutti fomentati per sempre dalla questione islamica, no? Ma noi in realtà di Islam ne sappiamo cose poco. Cioè, hai letto dei libri, non so, cioè, diciamo, dei libri di cucina, non certo dei libri... È inutile parlare della... attaccare un musulmano solo perché non mangia il prosciutto. Cioè, leggi il Corano non è che è vietato, è un'usanza, cioè come tu, Antonio, so, per esempio, voi siete una schiera di nel pianeta Kandale dovreste essere tutti vegetariani, sì, no? Ma questo non vuol dire che non è giusto mangiare carne, non devi fare una scelta, no? Esatto. Al Bataclan è stata fatta una scelta. È una questione delicata questa. Preferirei magari rimandarla quando c'è anche Manuel e Patrizio. Manuel, Claudio e Patrizio. Sì, perché sì, organizzeremo presto, ascoltatori, una tavola rotonda su queste questioni che hanno attaccato l'Europa, ma soprattutto Bologna, con Manuel, Gamberini, Claudio, quello dei tappeti elastici, dei giardini, Enrico Masi e sì. Il Joker. Però intanto, Roberto, sei pronto per farci sentire un altro pezzo che qua gli ascoltatori di Bibi sì, facciamo, aspettano. Facciamo merengue, si chiama. Merengue, un bel pezzo quello. E poi volevi anche parlare, magari dopo il pezzo, però, del libro che stai scrivendo. Il seguito di Bobo sì. Dopo faremo, faremo anche un reading, un reading, attenzione. Bruco di maledizione. Bruco. Merengue. No, adesso merengue, sì. Pronto, mamma! Hai detto che devo scendere, che vieni con le ciabatte a prendermi! Merengue! Ma fai via! Io e tuo padre avevo perso di merda! Ma mio padre stava ballando la salsa! Get piaceva mangiare le mie righe. A me piace succhiarle. È un pezzo un po' brechtiano questo. Un po' teatrale, un po' brechtiano. È strano anche perché non c'ho la didascalia per farla sentire tutta bene. Però è un pezzo molto lungo? Dura 48. Ah, 48. Non è un periodo radiofonico 48, insomma, però... Magari era un assaggino. Era un assaggino, però potrete presto trovare il disco intero Biballa da ricordi alla fonoteca. In via Mentana, di fianco al padre di Stefano. Stefano, che è uno dei sponsor di Expert, di cui poi un grande amico Roberto, da quanto lo so. Di Stefano? Di Stefano, non Stefano Cipolla, ma Stefano Zengo. Di Fostrada. No, non Stefano Sulieri, neanche Stefano Cipolla, neanche Amedeo Dragone, però no, Stefano dei Risorati Cinesi. Ah, Stefano Chen. Stefano Chen, sì. Io conoscevo bene il cugino che una volta venne col macete a scuola dove andavo io e fece un... Dopo la Reggio Emilia sono tagliati. Me lo ricordo, non lo so. Questa era di... Dai Moltini. Sì, cioè la passata, infatti mi ricordo sul giornale... La Gazza Volante, il giornale della scuola dove andavo io, c'era la Gazza Volante, sì. C'era scritto cinesi, due punti solite questione di Voltini. Sert Pede, in via Beroaldo 12, l'unica catena di Sert, dove è possibile pernottare per 4 settimane. Avrete assistenza gratuita per tutti i vostri bisogni, urine gratuite, test e tanto altro. Sert Pede in via Beroalto 12, dove anche la doccia è gratuita, potete soggiornare in brande in ferro battuto. Mi raccomando. Come dicevamo, allora, questo libro Il buco di maledizione è l'opera prima di Roberto, lo trovate sul sito della Spettro Records. È un libro molto, molto sentito, è un libro che parla di tante cose, tanti argomenti, parla di noi soprattutto. E abbiamo la fortuna di avere Roberto qua con noi, l'autore, e che sta scrivendo un seguito, un momento, il cui titolo sarà, Roberto... Bluco di maledizione, Bluco bloccami. Ah, questo devo ascoltarti anche qua, eh. E ci sceglierà uno dei, insomma, uno dei racconti, perché è una raccolta di racconti, un po' come quelle di Ammaniti, esattamente. E insomma, e sarà anche musicato dal vivo, dal suo cugino Amedeo Dragone, musicista, amico di Apicella. E insomma, Roberto, dimmi te quando sei pronto che possiamo andare. E questo è un estratto da il primo libro di Buco di maledizione che ho scritto 5 anni fa, 3. Devo leggere un estratto da appunto il libro in vendita. Per esempio lo teniamo anche nei Viaggi di Gulliver. Oscar il miracolato, eh. Andiamo pronto? Ci sono momenti nella vita in cui perdere un amico, perdere un amore, non è come perdere qualcosa della quale non puoi fare a meno. La face. Come tutti i lunedì pomeriggio, Oscar aspettava il bus seduto sul muretto, mangiando il suo panino merendino e un po' al formaggino jet. Giurò su Dio che era l'ultima volta che si dimenticava il suo top space scamosceto. L'autobus 1713 1713, diretto alla città bruciata, lo sguidava in maniera oscena per le vie del posto di Fable, mentre l'autista Crocker fumava la morosa, che era un sigaretto su Swimmers. Joker, il ballerino matto, faceva freneticamente fra i sedili e rispondendo pure al cellulare che l'aveva chiamato la morosa sigaretta. Mentre fumava la morosa sigaretta, si confuse, gli cade la paglia nel tentativo di non esplodere come il cugino. vicino Ciccio, appena sepolto l'autogrill, si buttò fuori dall'abitacolo, lasciando il bus in balia delle quinose e quattro formaggi, che conduceva direttamente verso l'olocausto Mazzarini. L'autobus sembrava in pieno il muretto, con seduto sopra Oscar, che intanto chiamava l'amichetto Sant'Agnese per farsi portare il coprifisso a Cogeto, lì dalla pensilina dell'autobus. Il muretto si frantumò e i mattoncini volarono da tutte le parti, centrando in piena face Oscar, da cui face diviene un buco face. Oscar fu portato all'ospedale di Gran Carriera. Mentre il suo buco a face risucchiava parecchie cose che transitavano di attorno. Fortunatamente San Crispino intervenne vestito da Agassi, ma con i capelli del più volti come un net, e donò alla scienza gli strumenti per donare a Oscar una nuova face. Peccato che la face era scaduta dagli scaffali semi-abbandonati di Crai, gli appartenenti sempre sempre a Crotone, e dopo essere stata rispedita di nuovo un carico di offerte umanitarie fatta a mano diretta verso Uganda, offerta gentilmente da Sissé, tornò direttamente in face a Oscar, che fu comunque contento di poter esprimere espressioni monster. Significativo che troverete in tutte le librerie, giusto? Dove l'hai presentato questo libro? In quale libreria? Non ricordo, ma Info Shop? Se non ricordo male, alle racchette di fortuna. Ah, quella di fianco a Martin Pescatore? Sì. È il Ciaos adesso, è il Ciaos. Sì. E poi? I centri sociali l'hai presentato ai compagni? No, lì ancora no. No, non sono più compagni di una volta, no, no, ma infatti compagni ricettivi a fonti di informazioni. Purtroppo è una grande macchiazza del nostro tempo. Ancora no, lì. Progetti per il futuro, oltre a Blocco Blockami? Ma mi diceva Patrizio che voleva chiamarmi per... Perché mi hanno detto che non siete stati selezionati per la visita del capo. È giusto, questa è un'altra brutta storia di cui vorrei parlare direttamente con Patrizio, che c'ha dentro avvelenato, ma ce l'abbiamo un po' tutti, e c'è tutta la Bologna resistente, la Bologna che avete visto contro la manifestazione contro Salvini, che ormai non è neanche più rappresentata da Radio Città del Capo. E quindi mi avrebbe chiamato per fare qualche intervento musicale, magari per vedere se si può scendere a patti con questa radio, che effettivamente mi risulta difficile, viene spazzata come radio underground, pensa che non ha preso neanche i miei singoli, mi mandai a tempo dietro e non credo, svantando i compagni, poi alla fine non metto musica da compagni, esatto, non mi viene in mente nessuna musica più da compagni. Prende le musiche che si sentono alle manifestazioni, in Indipendenza. La Banda Bardot. Banda Bardot, la Drum and Bass, i Rage Against the Machine. Sì. E come non pensare a Just Man? Ma non, la Radio Città del Capo non ne voleva sapere, quindi anch'io comunque mi sento un po' offeso. E volevo appunto insieme a Patrizio, appena mi chiamerà in trasmissione, che sarà anche lui, perché... Non so perché non sta bene ultimamente. No, devi sapere che Patrizio in questo momento è in giro per la città, è un instancabile ricercatore di informazioni ed è in sento che è in collegamento diretto con Miki e ci vuole dire qualcosa. Aspettiamo un attimo che mettiamo il comunicato ufficiale. Buonasera ragazzi, siamo direttamente collegati dal Buning di Via Pertini qua a Casalecchio, e c'è della movida a domenica sera su Baby Radio. Stanno arrivando delle persone, abbiamo qua in compagnia la voce The Flow, The Voice, Michele De Feo. Michele è conosciuto da tutti perché è il santone di Via Fondata a Bologna. Lui ha avuto un po' di problemi legati agli attacchi, a come gestire gli attacchi di ansia e di rabbia, ed è riuscito a sconfiggerli grazie al Valium, alle benzodiazepine. Allora The Float, innanzitutto grazie per essere qua con noi. Ti volevo Sai come funziona il palinsesto di Baby Radio? È una radio libera e puoi dire quello che vuoi, non c'è una programmazione, non ti devi programmare niente, devi solo parlare liberamente di quello che ti piace. Dici, presentati, dici che ti faccio una domanda. Allora, volevo sapere, mi hanno parlato di un'aura che c'è attorno a te, un'aura di adescatore. Sappiamo che a te ti piacciono le ragazze più giovani, le minorenni, e volevamo sapere dici come uno di questi segreti, un tuo segreto, che cosa fai a queste ragazze, se gli parli di Gurdjieff, di Evola. So che c'è tutta una sessione aurea dietro a queste ragazze minorenni di Bologna, quindi volevamo capire un attimo come ti approccio, perché ci interessa la tua metafora aulica. Sì, ciao, sono Michele. Sì, io agisco in questa maniera. Solitamente mi procuro grosse dosi di Gutarax, quello che serve a far spruzzare, e lo uso insieme ai miei amici. Posso presentarteli? Certo, vai Michele. Allora, non essere timido, parla tranquillo, liberamente, una radio free. Siamo collegati 100G.G qua. Allora, voglio presentarvi i miei compagni di Wolflow. C'è Splasman, Moncheri e Matteo. Ciao ragazzi. Anche voi, se volete intervenire, è una radio free, siamo sul posto qua, al bullying di Casalecchio di Reno. Ok, zio. Allora, vorrei parlarti di Splasman. Sì. Lui mi ha aiutato un sacco nel periodo in cui l'ansia si faceva forte. E parlaci un po' della tua ansia. Eravamo tu. Anch'io soffro di attacchi di ansia, quindi mi piacerebbe interagire con una persona che capisce i problemi. Sì, noi avevamo molti problemi, io e Splasman. Splasman rubava tutte le mattine dall'armadietto della nostra cameretta i Plasman e se li mangiava. E non lasciava niente per Moncheri e neanche per Matteo. E allora questo mi faceva venire molta rabbia. Ho dovuto litigare parecchio con Splasmon, ma poi abbiamo stretto una forte amicizia, perché lui ha una sessione molto forte, molto alta. Prova a chiederglielo. Dimmi, Splasmon, vuoi aggiungere qualcosa? No, ha detto praticamente tutto quello che serviva. È stato abbastanza esaustivo. Sì, volevo ricordare a chi si ascolta che Splasmon è noto anche come DJ Hell, DJ dell'inferno, e poi faremo partire un suo pezzo magari nelle prossime puntate. E Michele, noi ci conosciamo da tanti anni, quindi possiamo parlare liberamente, e mi hanno detto che adesso tu abiti in casa di Peter e Barry, e volevo, che sono due ex tossici, possiamo dirlo, no? Questa è la radio dei compagni, quindi non avere timore, parlaci pure di Peter e Barry, anche della schifezza che lasciano in camera, cioè sono queste le cose che ci interessano. Sì, no, cosa posso dire? Io vivo con queste due persone a cui voglio molto bene, però hanno questo problema legato all'igiene. E secondo te è dovuta anche agli attacchi di panico? Soprattutto gli attacchi di panico. Adesso ti chiedo scusa, ma non è qui con noi un altro nostro amico che si chiama Enrico è un nostro caro amico che ha fatto uno studio importante con praticamente dei fondi dall'Università di Ginevra. È riuscito a ottenere dei fondi molto importanti, delle cifre molto alte si parla qua, per uno studio sugli attacchi di panico in maniera tipo counseling. No, è più tipo non lo so, bla bla car. E vanno, praticamente ha fatto questo studio che spiega come gli attacchi di panico abbiano una radice in realtà non corporale all'interno di qualcuno, ma esterna. E abbiamo scoperto che la fonte che produce gli attacchi di panico è una città, ed è Bologna. Ma nella notizia, diciamo all'interno di questa notizia, è importante, però c'è un messaggio di pace e anche di positività, perché c'è un'oasi naturale che ci preserva da tutto questo. Ed è la sezione aurea del panico. È la sezione aurea del panico che tiene lontano tutti. È una città simbolo ormai. Ne hanno fatto anche un film, si chiama La Valle Incantata. E ora ha un nome, Castelmaggiore. Castelmaggiore è qualcuno. Ah, ci sono degli abitanti di Castelmaggiore qui vicino. Michele, ti volevo chiedere cosa ne pensi. Tu sai dell'esistenza del nuovo pianeta che stiamo costruendo, Kendale. Volevo sapere cosa ne pensavi. No, è pianeta naturale, dove tu, non, lo sai, solo te lo dico ora, c'è cioè Kendale, vorrei che ne facessi parte anche tu del nuovo pianeta. Sì, posso portare i miei amici. Certo. Ma no, io partecipo volentieri a, alla. Ma è già costruito questo pianeta. Siamo in fase di costruzione, facciamo delle assemblee ogni circa ogni mese. E chi ci ascolta lo sa, qua. Ah, okay, ok. Bologna in via Sebastiano Serlio stiamo cercando di promuovere. Inneggiamo al dio pietra, al sole, a fate lo sole. No, io sono piuttosto interessato. E come si chiama il pianeta? Ok, no, va bene. Scusate, no, ridiamo, lo diciamo agli ascoltatori perché siamo tutti un po' fatti di mezzo di azepine, non può da ridere, ma in realtà è molto seria la questione. Non vogliamo inquinare, vogliamo usare più barili d'olio per riscaldarci. Cioè, il nostro nuovo pianeta poi si basa sul riutilizzo. E a Bologna non è mai esistito un pianeta. Ma no. È tipo sull'equo solidale. Sì, però non c'è del merchandising dietro, capisci? No, è perché è molto naturale. È fatto per chi si fa. Ah, ho capito. Per i compagni che stanno dentro, che hanno bisogno di una mano. Kendale. Baby Radio. Once you go baby, you never go back. Baby. Porto un odio immisurabile, ma io non sono un miserabile. Sono abile come un serpente a sonagli, ma faccio ancora troppi sbagli. La musica mia è mon diretta e lo season è per questo. Sono sempre indigeno e scusami se è poco. Qua fa freddo ma si gioca con il fuoco. Vado in contromano, spengo i fanali. Così anch'io domani vado sui giornali e metto la mia vita a repentaglio. Per uno sbaglio, per uno sbaglio. Molte mi hanno dato due di picche e queste io le fumavo come cicche. Ma nessuna è stata una rubacuori quando mio batte per gli anni migliori. E come ladri posso fottermi dei quadri ricchi di colori, ma perdono i valori e la mia vita la coloro come i fiori. E vivendo una lucha entre il bien y el mal, pensando en mi vida dove llegará. Son las 2 de la mañana y pensando yo estoy. En mi vida y mi destino ya no quiero dolor. Hoy derroto a mi pasado y lo dejo atrás. Yo de lodo me levanto y pa'lante voy. Ciò che sono lo ricorderò in futuro, ma ciò che ero non ricorda come sono. Ciò che sono lo ricorderò in futuro, ma ciò che ero non ricorda come sono. È un presente che si mostra antipatico, che mi vuole in uno stato drammatico. E sono in preda al panico, perché? Perché la porta è chiusa ma non trovo il manico. È l'immaginazione dove c'è una tempesta ma non spegne il sole. In un significato simbolico, e lo misuro come il tasso alcolico. A volte sono stato un immaturo, infatti questo è il frutto di ciò che sono, ma quando poi sbagli sono sicuro che se alla fine pare si rivela un dono. Non guardo nel passato, ma diverse esperienze mi hanno migliorato. Ora so come fermare certi impulsi, perché dalla mia vita li ho espulsi. E vivendo una lucha entre bien y el mal, pensando en mi vida donde llegará. Son las 2 de la mañana y pensando yo estoy. E mi vida e mi destino già non chiedo dolor. Hoy derroto a mi passato e lo dejo atrás. Io de lodo me levanto e pa'lante voy. Ciò che sono lo ricorderò in futuro, ma ciò che ero non ricorda come sono. Ciò che sono lo ricorderò in futuro, ma ciò che ero non ricorda come sono. Ciò che sono lo ricorderò, però non so come sarò e dove arriverò. Vado avanti e tengo il fiato, e davanti si presenta il fato. Nella mia testa c'è un casino che aumenta, ma nel mio cuore sento una gran festa. Lo dico forte, ascolta, diamo una mano a chi la luce si è spenta. Intorno dimmi che cosa resta, non si vede niente d'ora, perdi la vista. Ma pensa che un cieco vede addirittura meglio di chi la vista la possiede. E a volte sono cieco per non vedere che succede in questo mondo opaco. E voglio che tu sappia che ci vedo bene, ma sono accecato dalla rabbia. Vivendo una lucha entre bien y el mal, pensando en mi vida, ¿dónde llegará? Son las 2 de la mañana y pensando yo estoy en mi vida y mi destino, ya no quiero dolor. Hoy derroto a mi pasado y lo dejo atrás. Yo de lodo me levanto y pa'lante voy. Scusa un attimo Roberto, ho qua in collegamento Patrizio. Patrizio, sei onnipresente, sei ovunque, sei ubiquo, mi dicevi che sei in collegamento speciale della Vereda, la Vereda, ricordiamolo, oggi è l'ultimo giorno della Vereda, è stata imposta la chiusura dalla giunta neonazista di Merola e questi sono proprio gli ultimi istanti della Vereda, l'unico locale rimasto dove si può ancora, l'ultima palestra di libertà insieme alla Red Rose del TPO. Sentiamo un attimo Patrizio, ci sei? Sono arrivati direttamente dalla Vereda, stanno chiudendo l'unico posto veramente free, sono di sei Patrizio. È un peccato che chiudono i veri posti di sinistra perché non ha pagato i debiti. Agostini fascisti. Baby Radio trasmette dalle frequenze di Via dei Poeti. Ultima serata alla Vereda. La frequenza free. Patrizio, ascoltatori, purtroppo la linea è caduta, niente, sono momenti difficili, difficili per tutti, e anche la Vereda è andata, e questo è un triste funerale a quello che una volta Bologna è stata, e forse, non lo so, non sarà mai più. Non lo so, non voglio esprimermi, mi dispiace Roberto, però dopo quello che sta succedendo adesso io la chiuderei qua per oggi. Sicuramente ci risentiremo presto, i pezzi di Just Man li metteremo spesso e comunque la prossima puntata sarà una puntata veramente speciale perché gli argomenti qua sono tanti e molto delicati. Niente, a presto ragazzi, ciao.